Buongiorno a Gabriele Fiolo, fotografo professionista e curatore del progetto, e grazie per essere qui con noi ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dunque, il respiro trattenuto, Bologna ai tempi del Covid-19 in 100 scatti d'autore, è la mostra fotografica che sarà esposta qui in Sala Borsa a partire dal 22 giugno. Qual è l'obiettivo e i valori che hanno portato a questo progetto? Allora, i valori sono, penso, abbastanza profondi, perché è un progetto sulla memoria, però sono partito dal fatto che la memoria purtroppo non può essere solamente emotiva, quindi in casi come questi la memoria è un dovere e con questi scatti tutti diventiamo testimoni. Poi il progetto, che non vede mie foto ma mi vede solo come curatore per scelta, ha coinvolto tutti i fotografi professionisti di Bologna e che operano sull'area di Bologna, che avevano i commissionati dalle loro agenzie, dalle loro testate, e quindi dovevano produrre le immagini da mandare nelle case della gente che doveva rimanere chiusa nei propri spazi a causa delle emergenze, del lockdown, dell'emergenza sanitaria. E quindi vuole riportare anche un po' il centro dell'attenzione e dei media alla funzione irrinunciabile della fotografia di qualità come mezzo di comunicazione. Tutti adesso sanno fare le foto, abbiamo dei cellulari performanti, bellissimi, che fanno cose bellissime, però il pensiero fotografico è tutta un'altra cosa, e i professionisti erano in strada da soli, con silenzi assurdi mai sentiti e cose mai viste per una città come Bologna, a documentare quello che stava succedendo per la cittadinanza, con un occhio professionale fotografico che è completamente diverso dal raggiungere obiettivi di like sui social. E quindi questo è proprio un progetto corale, incentrato sul valore documentario della fotografia. Che cosa ha significato mettere insieme questi 13 fotografi professionisti che hanno partecipato al progetto? Anche qualche nome, non so, di questi autori che hanno partecipato, insomma. I nomi sono 13 fotografi, sono 13 colleghi, amici. La chiamata è stata fatta a tutti, quindi ho chiesto anche a loro se c'era dei ragazzi che erano sul campo e io non ne conoscevo i lavori, così di segnalarmeli. Quindi abbiamo dallo storico Gianni Schicchi, figura presente in ogni dove di Bologna, Michele Nucci, Paolo Righi. Adesso è imbarazzante perché sono 13 da ricordare tutti. Poi c'è Michele Lapini, Max Cavallari, Alessandro Ruggeri, e Massimo Donati, Gianluca Perticone, Mauro Montaquila, e spero i maschi di averlo detto tutti. E ci sono anche 3 fotoreporter con 3 progetti veramente bellissimi, e sono Marika Puicker, Margherita Caprilli e Rossella Santosuosso. Inoltre, accanto alla mostra è stato realizzato anche un volume proprio edito da Minerva. Che cosa ha significato accostare un lavoro editoriale ad un progetto fotografico? Allora, è stata una cosa abbastanza strana. L'editore è stato contattato mentre io ero in Africa per dei lavori a gennaio e aveva già messo praticamente le mani avanti che i progetti sul Covid, la gente non ne poteva più, questo a gennaio 2021. Però appena sentito lo spessore del progetto ha subito adorato la causa e ha prodotto tutto il volume con un sostegno notevole. Bene, io la ringrazio e a presto. Buona mostra a tutti e grazie a voi.